音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人。我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合。当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。包容导盲犬，关爱盲人。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。请欣赏普契尼的歌剧《艺术家的生涯》，这是1992年斯克拉歌剧院演出时的盛况。饰演男主角鲁道夫的是帕瓦罗蒂，饰演女主角咪咪的是科特鲁巴斯，饰演马切洛的是卡布奇里，饰演巴切洛情人的是波普，由卡洛斯·克莱伯执棒。下面请连续欣赏。 Come se addosso mi piovesse in stelle per rivendicarmi a fuoco un faraone. Che fai? Dei cieli vigi guarda i mille pomiglioli Parigi e penso a quel padrone, vecchio Davide, quel dannatone che vive in ozio come un grande signore. Le sue vende caleste, mezzo non riceve. Le sue veste che fanno sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensier profondo. Un freddo cane! E Dio Marcel, non ti nascondo che non credo al sudore della fronte. Pugliattatele, Ivo! Ma se ancora le teresi mollate tu in quella grande acciaia che muore di insetta. L'amore è un caminetto che sciupa troppo. E in fretta dove l'uomo è fascina e la donna è l'alare lo brucia in un soffio e l'altro sta a guardare ma intanto qui si gela e si muore di nedia fuoco ci vuole aspetta sacrifichiam la sedia Aguzza un genio di me a farti piangere Fanta rosso Puzzate la divinta Il programma Sarebbe il programma Ci sguardi Quelle c'è la forza Mi giuri No, c'è il programma Si sguardi E le spagnole si accedi Ada secolo grande anno Minaccia Per Roma in Perugia cataratto primo. Ma straccia accanti. Lo trovo scintillante. Vivo. Ma dura poco. La brevità, gran pregio. Ancora me lo assedio. Questo intermedio fa morir di nebbia presto. Atto secondo. Non far sussurro. Pensier profondo sto color in quell'azzurro guizzo languente scuro d'ardente scena d'amore scoppia con foglio la gerambate crearti orgoglio d'un colpo vile alle le voci di desintegra quella la terra a passare oddio cosa passa la fiamma e vado che fragile dramma già scricchiola in crespa si muore. Abbasso, abbasso la legna, tigre, urdo, legna, palla, letto, vizze, una vera, di vestigi, destino, volta di braccia, per voi non sclaccia, cracca, craccata, dunque finirà. Sei sordo, sei libro, quest'uomo ti è Luigi Filippo, amici, non mi ha messo Luigi Filippo, è nostro di più or vi dirò quest'oro, o meglio argento alla sua brava storia si chiama il domino, un freddo segreto un inglese, un signor di nuovo, di l'argentina volevo di cesso via, e Mario Mio e vi presento ma c'è tenito basso sticcio dolce a quando le lezioni mi presento, ma c'è e gli mi domando, ma quando le lezioni risponde in ciao biccia. Di banale, è un pappagallo, ma di primo pianto, forse giugge in voi suonate, mica quello, ma vive, unica per cui non si sarà che mai. Allora, intanto, di mia presenza bella, di mia presenza bella, ma per me bella. Ottima cosa se pensiero l'orito all'argo l'ali l'orito all'argo l'ali l'orito il becco aprì un poco di leggevolo da Socrate morì sì. Che il diavolo vi porti tutti quanti ed or che fate? No! Queste cimarie sono la salmeria quei di futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino ve sue vie addobba di salsiccele cordiere quattro lezzo di frittelle in balzava le vecchie strade. Ma le ragazze cantano contente, amici di anni in casa, ma si pranzi Latis ombel cosce sedat. tu pada de cenza o sarà via il pelo sparrò la conoscenza la prima volta un barbito un sore e dopo il mio ridicolo andrà un rasoio Andiamo. Io resto per terminar l'articolo di fondo del castore. Arresto. Cinque minuti conosco il mestiere. Lo spetteremo che passo dal portiere. Parli un rai che coro. Cinque minuti. Taglia corta la coda al tuo castore. Adagio! Sono in vena. Chi era? Una donna. Sente meglio, qui c'è tanto freddo, sedda vicino al fuoco, aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco a poco. Così. Grazie. Che bella bambina. Tanta fretta. Sì. Grazie. Buonasera. Buonasera. Oh, sventura. Sarà la trovata? No, Roma, Roma. scrivo ancora due righe a volo. Chi son? Amici. Non son solo, siamo in due. Andate dal mus, tenete il posto, ci saremo posto. O soave fanciulla, dolce riso, di vite circonfusa al mandare. cuore lì poi il profano porto il fatto all'uomo felice sta sospetto a te io quando mi saggio ma frattanza di fatto questa è mi Gaia Fioraia il suo venir completa la bella compagnia perché sono il poeta essa la mio cervello scoccia dei canti dalle sue dita scoccia dei fiori dall'anima esultanti scoccia l'amore scoccia l'amore io che concetti rari escimari ingrediazzi necessit io non do che ho l'accessi ecco il giocatto di Perpignan sarò thank you. posso più, non ne posso più. Come qui dentro, qui. Carlo! Carlo, qui devo salvarmi a tutte le tue. Per me ci Susanna! Vestita! Gli angeli vanno nudi! Domandatelo a me, il suo nome è Musetta! Marcello mi vide! Cognome tentazione! Guarda il suo vocazione! Questo non va che ridere! Ti la butta solenti davanti e d'amore! Mi va tutti la vita! E come la civetta! Stavo un cielo sanguinario! Il suo cielo ordinario! 98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 你好，亲爱的朋友，欢迎收听歌舞剧场。在接下来的时间里，将继续为您带来普契尼的歌剧《艺术家的生涯》第三幕、第四幕录音，由帕瓦罗蒂、科特鲁巴斯、卡布奇里、波普等演唱，卡洛斯·克莱伯指挥斯卡拉歌剧院演出。 Insegna il canto ai passeggeri. Io vingo per guerrieri sulla facciata. È freddo, entrate. Vengo. Sì. Non posso entrare, nonno. Perché? Thank you. prepararmi d'anni lì per volare così. Già un'altra volta credetti morto il mio cuore, ma di quell'occhi azzurri ad aspettare essere sorto. Ora il tedio la sana fare il funerale per sé e mia vetro dei pazzi e l'amor petro. Tu sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto di pene giovezze, noioso, cocciuto! Con basta amore, con basta. Un tuo sorriso a quella comparigli di tre, vi saluto ridendo. Oh, Musetta le dissi, e il cuore non batte, ora lo sento. Grazie al velluto che il copre. Gusto da bene, c'ho gusto da bene. Traiora, ti rodi e ridi. Non batte? No. Bene. Hai vista? Oh, guarda! Ed in carrozza vestita come una regina. Evviva, ne son contento! Un bugiardo si strugge d'amore. Lavoriam! Lavoriam! Che penna infame! E infame penna! Thank you. grazia offretta erba stretta qualche brava qualche mister qualche mister qualche mister il re mi chiama il mister però vedrò vedrò chi sa Orgi mi nacco, eri io fatto. Mi sia permesso al nobile consesso. Ispiro irresistibile, destro dell'arma. Azione coreografica allora. Sì, sì, sì. La danza con musica vocale si scombrino le sale. Cavotto, minuetto, amarella, andando. Propongo la quadriglia. Ma dalle dame! Non detto! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la pezzosa damigetta. Rispetti la modestia. La prego! La la la la la la la la la la la la la la la la la bestia! Ma di darla che? Ferro dei mattaccio! Su di ferro! Non ti assaggia! Il tuo sangue a voglio è! Un di volti si spaderà! Ma questa tu la fai! Ma questa tu uccida! Vedi cosa la pensione gira quando arriva l'ora! Thank you. mia. La mezz'ora è morta. Quanto freddo. Se avessi il manicotto. Oh, guagioni. E ver, va via. Cerca, cerca. Mio bel signore, posso ben dire adesso, e la tua sei per resta. riposa. Ho venuto il dottore, verrà, gli ho fatto fretta, ecco il cordial. 听众朋友，今天的歌舞剧场就到这里了，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道接下来的精彩节目。

Vivere! Ordo! Regna! Arma! Detto vizze d'una terra di due sfingere sfida Vacca di Francia per voi non sclaccia Recca trattata su me fini la Sei sordo, sei lì con quest'uomo, chi è? Luigi Filippo, amici, non mi avrei Sono Luigi Filippo, e non mi dipie Or vi dirò quest'oro o meglio argento alla sua brava storia il cammino fino sul petto un inglese un signor di prova di dare cosia vole un decisto via per mario che io parlo io qua e mi presento macchette di domando ciccio dolce ma quando le lezioni mi presento macchette di domando ma quando le lezioni risponde in ciao biccia di badare che pappagallo ma di arrivo pianto forza giungi in coizionale mica quello un po' vive da quello di sua macchina allora l'incanto di mia presenza bella a parlare di bella un'idea in costituzione ho tirato la presenza L'orito all'argolari, l'orito all'argolari, l'orito il becco aprì. Un popo di prezzemolo da Socrate morì. Sì, che il diavolo vi porti tutti quanti. Ed or che pare, no! Queste cimarie sono la salmeria quei di futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino le sue vie addobba di salsicce le cornie Quattro lorezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade ma le ragazze cantano contente amici di amico in casa ma si pranzi Volto di più! Lo su e giù! Lo l'altra sera Alma vil l'han colto il peccato d'amore Io! Alma vil l'altra sera l'han colto Neghe! Riccore! Seduttore! Riccore! Una quercia, un cannone! Un uomo d'angusto! Il grido ricciuto è fulmine! Don! Ehi, gondola, l'argilo è peccoruto! San vecchia, narra buona! Sbarro, ma che donne allegra e un po' no con la balena o vagabondo a mezzo fondo dall'altra piena ma magra proprio magra no, poi no le donne magre son grattacapi e spesso sopra capi e son piedi d'amie per esempio mia moglie trimestre al quartiere latin ci attende un novizio meno ti spende dividiamo il bottino dividiamo là ci son bel cosce dal cielo perché se ricco vado la decenza poi sarà via il pelo Farò la conoscenza la prima volta con parmi consore. E dopo mi avvigli con l'altra già d'un rasoio. Andiamo! Andiamo! Andiamo! Andiamo! Andiamo! Io resto per terminare l'articolo di fondo del pastore. A presto. Cinque minuti conosco il mestiere. Lo spetteremo da passo dal quartiere. Tardi un braio che coro. Cinque minuti. Taglia corta la coda al tuo castor. Adagio. Bolline, sei morto? Non ancora, presto. Non sono in vena. Vi è là una donna. Thank you. E ora come faccio? Così. E mi sono ammalata. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo. Segga vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco, poco. Con